La maggior parte del mercato pubblicitario si divide un po' in due parti e sono quelle che sono più visibili all'occhio dell'utente di oggi, che sono la pubblicità sui motori di ricerca, quella che vedi ogni volta che cerchi qualcosa su Yahoo o su Google, e poi hai la pubblicità invece quella che è più in forma di banner, che vedi sui portali, che è chiamata spesso display advertising. Quello che sta succedendo adesso nel mercato dell'advertising è che il display advertising, quindi tutto quello che è in forma più creativa e di banner e di flash banners, sta avendo investimenti crescenti e sarà una delle parti pubblicitarie che crescerà di più nei prossimi anni. In realtà leggevo l'altro giorno, l'Italia è uno dei mercati, credo l'undicesimo mercato al mondo in termini di investimenti pubblicitari, quindi un mercato tra i più grossi e in crescita. E quindi quello che OpenX ti permette di fare è di distribuire entrambi i tipi di pubblicità sul proprio sito. Voi pensate, e questo è un bacino di utenti che voi guardate con molta attenzione, che ci sia molto business tra i piccoli editori, che possono essere anche persone che semplicemente si mettono a scrivere su un proprio sito internet, su un proprio blog. Pensate che i grandi numeri che la rete sta generando all'interno di quel grande settore che si chiama user generated content, quindi contenuti generati dagli utenti, possa rappresentare un business anche per voi e per gli editori stessi? Assolutamente, assolutamente. Ti posso dare un esempio. Noi abbiamo 30.000 utenti al mondo e questi sono divisi tra ogni fascia di grandezza e la maggior parte, una grandissima parte della nostra utenza sono piccoli siti che fanno per esempio 1.000 impressioni di pagina al mese, quindi molto piccoli e sono siti, sono dei blog oppure siti di piccole associazioni locali in qualche paese, quindi anche il piccolo editore oggi può usare gli stessi strumenti che grosse compagnie usano. Noi abbiamo per esempio vari editori nel network di ANSOD, l'Associazione Nazionale della Stampa Online, e quindi hai piccoli siti come Sassuolo 2000, per esempio, che usano OpenX, e d'altra parte abbiamo grandi compagnie come Sun Microsystems o TechCrunch che usano OpenX, quindi c'è spazio assolutamente per i piccoli, è una gran parte della nostra base di utenza e trovo, e noi parliamo spesso con la nostra comunità, che molti di questi hanno addirittura l'unica loro entrata viene dagli utili che ricevono con la pubblicità online dal proprio sito, quindi OpenX diventa uno strumento importante per la loro economia.